Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Tragedia di donne e bambini in un mercato in Pakistan nel giorno dell'arrivo di Hillary Clinton, attentato contro una sede ONU in Afghanistan. La Caritas, 4 milioni e mezzo gli immigrati irregolari in Italia, per la prima volta superata la media europea. Aumenta la propensione al risparmio delle famiglie italiane nonostante la crisi e torna la fiducia nel futuro, lo dice un rapporto dell'ACRI. Ok del governo alla riforma dell'università, ridotte le facoltà e arriva il fondo per gli studenti più bravi. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci, la pagina degli esteri in primo piano, perché questa mattina si registrano due gravi attentati in due paesi in qualche modo legati da questo filo del terrore. A Peshawar in Pakistan almeno 80 morti, molte sono donne e bambini, per un'autobomba esplosa in un affollato mercato. Il segretario di Stato americano Hillary Clinton era atterrata sul suolo pakistano da poche ore, quando questa mattina i talebani hanno presentato il proprio biglietto da visita. Un'autobomba nel cuore di uno dei bazar più affollati di Peshawar, costata la vita ad almeno 86 persone. Un modo per chiarire, una volta per tutte, che la guerra tra governo ed estremismo islamico non si sta combattendo soltanto nel South Waziristan, dove l'esercito sta incalzando i talebani, ma anche a Islamabad, Lahore, Peshawar, ovunque possono arrivare le autobombe e gli attentatori suicidi. L'attacco di oggi è avvenuto in un mercato, e all'ora di punta, in una zona occupata prevalentemente da negozi di abbigliamento femminile, così che tra le vittime ci fossero molte donne, una circostanza forse non casuale nel giorno di arrivo della Clinton. La bomba di stamattina si inserisce però anche in una campagna terroristica più ampia, che nel corso dell'ultimo mese ha fatto oltre 200 vittime, colpendo anche, come oggi a Peshawar, donne e bambini, ma concentrandosi nelle settimane passate contro la comunità internazionale, contro le scuole e soprattutto contro quelle forze armate impegnate in una battaglia chiave contro i talebani sulle montagne al confine con l'Afghanistan. Marco Masciaga, GR24, Sole 24 Ore, New Delhi. L'altro attentato in Afghanistan, in particolare a Kabul. In questo momento abbiamo sei persone uccise nell'attentato, sono tutti impiegati dell'ONU che lavoravano qui a Kabul. Ci sono almeno nove feriti, molti di questi sono in gravissime condizioni. Quello che avete appena sentito è Adam Edwards ed è il portavoce ONU a Kabul. È lui che parla con la stampa e fa passare le informazioni, ma questa volta è la notizia che supera tutti. L'attacco è stato rivendicato dai talebani, che dicono si tratti della prima tappa della campagna di disturbo delle elezioni presidenziali, il cui secondo turno è previsto per il prossimo 7 novembre. Campagna di disturbo la chiamano. Sette talebani questa mattina alle 6.30 hanno fatto irruzione in un edificio occupato da personale delle Nazioni Unite, prendendoli in ostaggio e poi uccidendoli a freddo. L'attacco è terminato verso le 8.30 locali, quando gli ultimi tre attentatori, ancora in vita, armati di mitra e cinture esplosive, sono stati uccisi dalle forze di sicurezza. Si tratta di un gravissimo evento, ha detto Edwards. In sette anni non era mai accaduto nulla di così grave. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E di quello che sta succedendo fra Pakistan ed Afghanistan parliamo ora con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che salutiamo. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. A te innanzitutto i complimenti, perché hai vinto il premio Cutuli. Sì, e tra l'altro titolato Maria Grazia Cutuli, che proprio il 21 novembre del 2001 cade in un agguato tragico proprio al passo di Sarubi, a 70 chilometri da Kabul. Purtroppo sì, ce lo ricordiamo. Dicevo in apertura che questi due paesi sono accomunati oggi, ma non solo oggi, da questo filo del terrore. Spiegaci meglio. Ma direi che il tratto comune della situazione tra Afghanistan e Pakistan è proprio questo, la guerra delle città. Cioè la guerriglia, i talebani hanno deciso di portare a Kabul, a Peshawar, a Islamabad, la guerriglia che si svolge nelle campagne, nelle zone rurali, tra le montagne del Waziristan per il Pakistan, o tra quelle dell'Helmand e delle altre province meridionali dell'Afghanistan. Questa è un po' la strategia, cioè la campagna che assedia le città e mettere in difficoltà la coalizione internazionale. E purtroppo ci stanno anche riuscendo, Alberto, no? Sì, effettivamente ci stanno riuscendo, in un momento tra l'altro molto delicato, in cui il presidente americano Obama deve decidere che cosa fare sull'invio delle truppe e soprattutto che strategia adottare in Afghanistan. E mentre gli americani con la Clinton, il segretario di Stato Clinton, stanno negoziando con il Pakistan questi aiuti civili e militari che stanno suscitando anche all'interno del paese, soprattutto tra i militari, molti dubbi e perplessità. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Ora il dossier immigrazione della Caritas: sono 4,3 milioni gli immigrati regolari in Italia, oltre 4 milioni e mezzo se si contano le circa 300.000 domande di regolarizzazione delle badanti. Lavorano, vanno a scuola, si laureano, si sposano sempre di più anche con gli italiani. Il loro tasso di criminalità al netto dei reati legati all'immigrazione irregolare sostanzialmente analogo a quello degli italiani. Sono tutti dati che emergono dal rapporto Caritas 2009 presentato oggi in contemporanea a Milano e Roma. Paolo Piacenza ha intervistato Luca Di Sciullo, uno degli estensori della ricerca. La novità è paradossalmente il fatto che l'immigrazione, nella logica dei grandi numeri che è quella del dossier, reclama di essere considerata e anche gestita come un fenomeno normale, al di là di tutti gli allarmismi spesso indotti anche dalla stampa e che però non trovano riscontro nei grandi numeri. In Italia ci sono ormai oltre 4 milioni e 300 mila immigrati regolari, il loro grado di inserimento è sempre più stabile sul territorio perché si tratta di persone che vengono nella stragrande maggioranza per lavorare, hanno un tasso di attività più alto di quello degli italiani e sono ancora inseriti in settori caratterizzati da grande precarietà, però riescono a compensare questo aspetto attraverso una grande mobilità sul territorio, andando a inserirsi in nicchie di mercato strategiche per la nostra economia. Proprio nel 2008, un anno di crisi, in realtà c'è stato un aumento degli occupati tra gli immigrati importante, se non mi sbaglio 200.000 unità. E le fonti ufficiali parlano di circa 2 milioni di immigrati lavoratori, rappresentano il 10% della forza lavoro nazionale, per una quota quasi simile, cioè quasi il 10%, producono la nostra ricchezza nazionale, cioè il PIL. E si tratta di una quota impressionante, calcolando che la loro presenza invece arriva al 7%. E inoltre poi attraverso alcuni dati della Banca d'Italia e anche di Unioncamere si vede come attraverso il gettito fiscale e anche le contribuzioni previdenziali che loro versano, si pagano abbondantemente tutti gli interventi di politiche sociali che sono loro rivolti, arrivandosi a coprire addirittura il doppio di quello che poi consumano. E la presentazione del rapporto Caritas è stata l'occasione per un nuovo affondo della conferenza episcopale sul pacchetto sicurezza. Secondo i vescovi italiani, gli immigrati non possono essere equiparati ai delinquenti e si è parlato troppo di sicurezza, troppo poco di integrazione. È necessario considerare gli immigrati come nuovi cittadini, portandoli ad essere soggetti attivi nella società che li ha accolti, ha detto Monsignor Bruno Schettino, presidente della Commissione Episcopale per l'Immigrazione. Cambiamo argomento: quanto riescono a risparmiare gli italiani in tempo di crisi? Ce lo dice Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è una vera e propria istantanea sugli effetti della crisi economica sulle famiglie italiane e sulla loro propensione al risparmio, quella scattata dalla consueta indagine statistica presentata dall'ACRI alla vigilia della 85esima giornata mondiale del risparmio. Dall'indagine emerge che la preoccupazione per la gravità della crisi è forte, tuttavia gli italiani guardano al futuro con un rinnovato ottimismo e i fiduciosi passano dal 34% del 2008 al 55% del 2009. I segnali di ottimismo, spiega l'indagine commissionata dall'Associazione delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio, sembrano trarre energia anche da una ritrovata capacità di risparmio, 37% contro il 34% di un anno fa. Il Nord-Est si conferma l'area con la maggiore concentrazione di famiglie in grado di accumulare risparmio. Italiani più virtuosi dunque, secondo l'indagine ACRI. Segnali diversi arrivano però dall'Istat, per il quale la propensione al risparmio si riduce nel secondo trimestre 2009 dello 0,4%, nello stesso periodo diminuisce di 11 miliardi il reddito lordo a disposizione dei consumatori e delle microimprese. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. In arrivo intanto agevolazioni fiscali per le zone più povere d'Italia. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno da Catania a Campobasso, da Lecce a Napoli, 22 comuni di cui 18 nel mezzogiorno che avranno al loro interno vere e proprie zone franche, cioè interi quartieri in cui saranno operative agevolazioni fiscali e contributive per la creazione di piccole e medie imprese e quindi di nuovi posti di lavoro. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del piano straordinario del governo per il Sud, volto a rilanciare aree urbane segnate da forte degrado socio-economico. La dotazione finanziaria iniziale è di 100 milioni di euro, le agevolazioni partono il 1 gennaio 2010 potranno durare fino a 14 anni. È un atto di fiducia verso il Sud, ha detto il ministro per lo sviluppo economico Scajola, che questa mattina ha firmato i contratti con i 22 sindaci interessati. Inoltre il ministro ha ricordato che per le aree colpite dal sisma il decreto Abruzzo ha stanziato ad oggi 45 milioni di euro che andranno a finanziare uno specifico progetto di zona franca urbana per quella regione. Da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi, restiamo a Roma per le manovre al centro dopo l'annuncio dell'addio di Rutelli al Partito Democratico. Ci colleghiamo con Elisabetta Fiorito. Primo incontro, primi distinguo tra il neo segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani e il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro, accordo fatto per le regionali, ma per ora l'opposizione torna a parlarsi con sapori diversi. Siamo uniti nell'obiettivo di costruire l'alternativa al governo, spiega Bersani, ma ciascuno con la propria autonomia. Poi Bersani va alla manifestazione dei sindacati di polizia a portare solidarietà, ma sentiamo il neo segretario del Partito Democratico. Abbiamo, mi pare, insomma, confermato l'idea di convergere in una alleanza, naturalmente poi vedendo regione per regione. Collaborazione confermata da Di Pietro, anche se il 5 dicembre in piazza ci sarà solo l'Italia dei Valori. Io e Bersani, dice Di Pietro, siamo convinti che prima si libera il Parlamento dalla cappa berlusconiana, meglio è per il Paese. Sentiamo Di Pietro. L'Italia dei Valori e il Partito Democratico hanno un obiettivo di sistema comune, un'alternativa di governo da offrire a questo paese. Grazie ad Elisabetta Fiorito, ma con chi dovrebbe allearsi il PD? Era il tema del nostro sondaggio di oggi, sentiamo com'è andato. Con l'elezione di Bersani a segretario, il PD guarda le possibili nuove alleanze per creare una coalizione in grado di puntare alla maggioranza. Già, ma con chi unirsi? Era il sondaggio di oggi. Vi proponevamo quattro possibilità: l'UDC, l'Italia dei Valori, la sinistra radicale oppure con nessuno. Ebbene, ha prevalso col 36% proprio la corsa solitaria dei democratici, come a dire che la vocazione maggioritaria voluta da Veltroni per gli ascoltatori non dovrebbe essere archiviata. Il 33% invece vuole il PD con Di Pietro, il 22% con l'UDC di Casini e solo il 10% ricreerebbe un'alleanza con la sinistra, anche se il segretario di Rifondazione Paolo Ferrero boccia l'esperienza del governo Prodi. Ho considerato quell'esperimento non serio, nel senso che l'accordo che c'era stato non è stato rispettato e quindi non è riuscito a dare un indirizzo che era quello promesso al paese. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare. Radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. We're all here because of him. May that continue with him leading the way. This is the moment. This is it. It's an adventure. Insomma, ne parliamo davvero da mesi di questo film postumo di Michael Jackson, This Is It. Finalmente oggi esce in Italia, l'ha visto per noi questa mattina, anteprima per la stampa, Marta Cagnola. Marta! Eccoci qui. Beh, allora, insomma, com'è? Abbiamo parlato tanto di questo Michael Jackson e inevitabilmente ci chiedevamo in che forma era e cosa sarebbe stato questo This Is It. Beh, lui sicuramente non era il Michael Jackson di 20 anni fa, ma era ancora lucidissimo, attentissimo a ogni particolare dello show e soprattutto estremamente bravo, sia vocalmente che dal punto di vista della danza. Certo, si tratta di prove, quindi insomma lui probabilmente non avrebbe accettato di mostrare queste immagini perché era assolutamente perfezionista. Che dire, lo spettacolo sì, sarebbe... Noi, dalle immagini che si sono viste, perché comunque dalla sua morte se ne sono viste parecchie, no? Di immagini del suo ultimo show, sembra abbastanza, insomma, messo bene, ma davvero molto magro, insomma. Molto magro, sicuramente molto dimagrito, infatti era sempre molto vestito, aveva giacche ampie, aveva molti maglioni. Esatto, però in forma comunque strepitosa. C'è da dire che l'umanità che viene fuori di Michael Jackson è molto poca, quindi è sicuramente un documentario montato con 5 o 6 sessioni di prove. Non possiamo sapere se lui era stanco, se era scontento, perché questo non potrebbero sicuramente mai farcelo vedere. C'è da dire che sicuramente sarebbe stato uno show memorabile, perché oltre alle esibizioni live di Michael Jackson con alcuni ballerini straordinari, c'erano anche dei filmati che sono stati montati nel film, con Michael Jackson all'interno del film Gilda, oppure Michael Jackson, sì, insomma dei filmati in 3D che sicuramente avrebbero reso il concerto del tutto memorabile, sarebbe stato davvero storico. In una parola, andiamo a vederlo, no? È un documento straordinario per capire cos'era Michael Jackson e cosa è stato fino alla fine. Nella prima parte del GR, strage di donne e bambini in un mercato in Pakistan nel giorno dell'arrivo di Hillary Clinton, attentato contro una sede dell'ONU in Afghanistan. La Caritas, il rapporto Caritas, 4 milioni e mezzo gli immigrati regolari in Italia, per la prima volta è stata superata la media europea. E ripartiamo ora invece dal Consiglio dei Ministri, che questa mattina, come previsto, ha dato il via libera al rifinanziamento delle missioni all'estero e ha approvato il disegno di legge sulla riforma universitaria. Sentiamo il Ministro della Pubblica Istruzione e dell'Università, Maria Stella Gelmini. Le università avranno dall'approvazione 6 mesi di tempo per rivedere i loro statuti sulla base di alcuni principi fondamentali. Innanzitutto una rigorosa distinzione dei compiti e dei ruoli fra il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. Prevediamo una riduzione del numero dei componenti questi organi. Debuttano i membri esterni, nel senso che il 40% dei componenti il Consiglio di amministrazione sarà rappresentato da membri esterni, questo per favorire una mobilità e anche un'apertura del sistema universitario al territorio. Prevediamo un limite massimo di mandati per i rettori. Sappiamo che oggi ci sono rettori in carica da oltre 20 anni. Crediamo che un ricambio generazionale possa fare bene. E accanto alla Gelmini, il ministro dell'economia Tremonti, che assicura i soldi per la riforma ci sono. I finanziamenti saranno disposti con la finanziaria e dentro la meccanica della finanziaria sarà, come dire, fondamentale la priorità nella destinazione dei fondi del cosiddetto rimpatrio dei capitali per l'università, in modo che si volga dal negativo della esportazione dei capitali al positivo dell'investimento sul futuro. Una delle intenzioni della riforma dell'università vorrebbe essere anche la lotta al nepotismo, appunto, all'interno degli atenei. Vedremo se ci saranno degli effetti. Intanto la Toscana, prima regione in Italia, vieta il nepotismo nella sanità per legge. Corsie off limits per figli, mogli, mariti, fratelli e nipoti. In Toscana è legge la norma antinepotismo nella sanità, la prima del genere in Italia. Vieta ad aziende ospedaliere e DASL di assumere personale che abbia un rapporto di parentela fino al terzo grado con chi dirige il reparto. Coppie di fatto incluse. Il personale che venga a trovarsi in queste condizioni, chiarisce la legge approvata ieri dal Consiglio regionale, verrà assegnato ad altra struttura. Vogliamo impedire la trasmissione genetica di uffici pubblici, ci dice soddisfatto l'assessore alla sanità Enrico Rossi. Oggi insomma si può partecipare a un concorso, vincerlo e sapere che non ti troverai davanti a dirigere la struttura in cui andrà a operare un padre o uno che ha un rapporto di parentela con un altro che è nelle sue stesse condizioni. Chi ha avuto la fortuna di avere un padre o un parente eccellente da cui imparare gli elementi del mestiere può andare a dimostrare la propria validità anche in una struttura affine. L'ufficio pubblico non è una bottega artigiana, ecco, che si tramanda di padre in figlio. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di calcio, perché si gioca stasera la 10ª giornata di Serie A. Fra le partite più interessanti, Juventus-Sampdoria e Napoli-Milan. Domani il posticipo Inter-Palermo, ma l'influenza A preoccupa anche il mondo dello sport, che adesso chiede garanzie e risposte. Ancora non c'è una vera e propria emergenza, ma dopo Francia, Inghilterra e Spagna anche lo sport italiano ed il calcio iniziano a fare i conti con il virus. C'è da decidere se somministrare o meno e in che misura il vaccino ai giocatori, che dalla Serie A alle categorie dilettantistiche nel nostro paese sono alcune migliori. migliaia. Per il momento non sono segnalati casi, ma come ha sottolineato il presidente dell'Associazione Medici del Calcio Castellacci, spogliatoi e terreni di gioco sono i luoghi ideali per la propagazione del virus influenzale. Venerdì Castellacci incontrerà il viceministro alla salute Fazio, che dopo l'iniziale no all'ipotesi di vaccinazione, ora sembra più favorevole a studiare misure anticontagio. Il presidente del CONI Petrucci ha sollevato il problema. I giochi olimpici di Vancouver sono dietro l'angolo e al villaggio l'influenza A potrebbe decimare intere squadre. Al momento però l'attività sportiva in Italia prosegue regolarmente, come annuncia il presidente dell'Istituto del CONI di Medicina dello Sport, professor Carlo Tranquilli. Un provvedimento di questo tipo può essere giustificato soltanto dalla possibilità che abbiamo un elevato rischio di contagio in un ambiente chiuso, confinato. Cioè, se in una squadra abbiamo 3 o 4 atleti di cui è diagnosticata questo tipo di malattia, conviene che gli altri non incontrino delle persone nel tempo immediato, ma soltanto per questo motivo, non per il rischio della gara in sé. Tra ipotesi di vaccini e consigli di profilassi, alla fine trionfa la saggezza contadina. Dall'Inghilterra, Ancelotti fa sapere che si affiderà ai rimedi della nonna emiliana: latte caldo e vino rosso. Massimo Di Scienza, Gere 24, Il Sole 24 Ore. Prima di proseguire, una nota d'agenzia nelle parole del procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo. Se le nostre toghe sono rosse, lo sono per il sangue dei magistrati che hanno pagato con la vita la difesa della legalità e dei valori costituzionali, a cominciare da Falcone e Borsellino. Il commento con cui il procuratore aggiunto di Milano Robledo replica le parole di Berlusconi ieri sera a Ballarò. Robledo da PM aveva seguito insieme al collega De Pasquale le indagini sui diritti TV di Mediaset e sul caso Mills. Dopo Freccia Rossa, Trenitalia questa mattina ha presentato un'altra freccia. Maria Chiara Grandis in diretta. Sì, buongiorno. È stato presentato proprio qui alla stazione Termini di Roma dal gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia, come dicevate, il nuovo treno Freccia Argento, che insieme ai Freccia Rossa completa il percorso dell'alta velocità nel nostro paese. Il Freccia Argento estende infatti i benefici della rete veloce anche alle città prima escluse come Verona, Venezia, Bari, Lamezia Terme e Reggio Calabria. Si potrà viaggiare ad esempio da Roma a Venezia in 3 ore e 15 minuti. Tutto questo dal 13 dicembre, quando aumenteranno anche i treni Freccia Rossa. Uno ogni 15 minuti fino alle 21 sulla tratta Roma-Milano, percorribile in 2 ore e 45 minuti. Un'offerta, ha sottolineato l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, che si rivolge a tutti anche per le promozioni e le tariffe applicate e sconti tutto l'anno per le prenotazioni in anticipo. Anche nord e sud più vicini, con Napoli-Milano in 4 ore e 10 minuti. Dalla primavera poi internet e copertura telefonica su tutti i tragitti e un'iniziativa particolare nel giorno dell'inaugurazione, il 13 dicembre appunto, con biglietti che costeranno tanto quanto la durata del viaggio. E da Roma è tutto. Grazie Maria Chiara Grandis. Si conclude qui questo GR24, che è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Filippo Aureggi. Ci risentiamo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.